America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Manchester, New Hampshire, Mario Platero. Tonight we made history. Mitt Romney ha vinto il New Hampshire, l'avete sentito, ha detto che è stata una vittoria storica. In effetti è stata una vittoria storica, perché nessun altro candidato repubblicano era riuscito mai a vincere sia l'Iowa che il New Hampshire, e devo dire molto ben avviato Mitt Romney, perché è in testa anche in Carolina del Sud e in Florida, e dunque potrebbe davvero fare un amplen. Risultato finale: Mitt Romney 40% delle preferenze in New Hampshire, risultato molto forte al di là delle aspettative, convincente. 23% per Ron Paul, il candidato libertario, 17% per John Huntsman, ex ambasciatore in Cina di Barack Obama ma ex governatore repubblicano dello Utah, 10% per Newt Gingrich, 9% per Rick Santorum. Ricordiamolo, Rick Santorum fu il candidato che arrivò spalla a spalla con Mitt Romney in Iowa, una differenza soltanto di 8 voti. Ron Paul si è congratulato con Mitt Romney, ma ha detto che lo sto incalzando, e quindi è chiaro che Ron Paul sarà in questa corsa fino alla fine, secondo me, perché è il suo ruolo, un ruolo di un candidato libertario. Mentre Gingrich e Santorum non hanno fatto bene come speravano, Santorum ha deluso dopo la vittoria straordinaria che aveva fatto in Iowa. Ecco, vi sto parlando in questo momento dal Hanover Chop House, che è uno dei locali più conosciuti, più famosi qui a Manchester. Sono qui a fare un breakfast a base di caffè all'americana con colleghi del Corriere della Sera e del Sole 24 Ore, con Massimo Gaggi del Corriere, con Paolo Valentino, anche lui del Corriere, e con Christian Rocca del mio giornale del Sole 24 Ore. Comincio con Christian. Christian, beh, soddisfazione per Romney, immagino. Beh, miglior risultato non poteva avere. Il suo numero due è Ron Paul, che è un candidato anziano, ineleggibile, estremista e radicale. Quello che è arrivato al terzo posto è John Huntsman, è un candidato più moderato di lui, quindi arriverà alle elezioni in South Carolina senza lo spauracchio di un'alternativa conservatrice, perché il candidato conservatore è lui. Ecco, c'è un punto debole, Massimo, secondo te, Massimo Gaggi del Corriere della Sera, in Mitt Romney? Ma il punto debole è quello della sua personalità, questo fatto di essere considerato da molti il cosiddetto candidato di default, quello per il quale si vota perché appunto è il più eleggibile, ma che non entusiasma, che non scalda i cuori. Infatti questa sera abbiamo visto che ha fatto un discorso molto forte, molto duro, tentando di galvanizzare l'elettorato conservatore, quello che vota nelle primarie in misura principale. Probabilmente dopo la nomination vedremo un Romney più moderato, un Romney che cercherà il voto dei centristi, ma in questa fase invece sta cercando di scaldare il cuore più conservatore dell'America profonda. Ecco, Massimo ha parlato, Paolo, del discorso di Romney, un discorso molto aggressivo, un discorso contro Obama. Tu conosci bene Barack Obama, lo hai anche intervistato. Secondo te com'è un confronto Barack Obama-Mitt Romney? Beh, questo lo vedremo, nel senso che Mitt Romney è chiaro che questa sera doveva necessariamente, dopo le risse che hanno caratterizzato la fase finale della campagna elettorale repubblicana, delle primarie repubblicane, doveva necessariamente alzare la mira e profilarsi già come lo sfidante di Obama, e quindi ha concentrato tutta la sua potenza di fuoco contro il presidente. Io credo che dovrà articolare in modo più approfondito la sua proposta. Ovviamente siamo ancora a affermazioni molto generiche, non approfondite. Insomma, il progetto, la piattaforma Romney dovrà essere definita, e in ogni caso però credo che abbia un caso molto serio e importante da fare contro il presidente Obama, e quindi sarà uno sfidante che forse non reggerà il confronto, cioè dovrà lavorare molto per reggere il confronto sul piano della retorica e sul piano del carisma, ma sarà uno sfidante molto duro e molto serio per il presidente Obama, che la Casa Bianca farebbe bene a non sottovalutare. Ecco Massimo, guardando in avanti, abbiamo la Carolina del Sud, poi abbiamo la Florida. Tu condividi che forse Romney può riuscire già a mettere in tasca la nomination con la Florida? Beh, il meccanismo di assegnazione dei delegati è complicato, e quindi la certezza l'avrà molto avanti, però certamente se dopo aver conquistato sia pure per un soffio uno stato agricolo del grandi pianure come l'Iowa, dopo aver stravinto ieri sera in New Hampshire, nel cuore del New England, se si aggiudica anche due stati del sud, beh, insomma, a questo punto il vantaggio comincia a essere molto molto consistente. Romney ha attaccato Obama sull'Europa. Perché c'è questo attacco continuo sull'Europa? Beh, credo che in questo momento faccia molto gioco a Romney profilare un modello sociale ed economico diverso da quello europeo, caratterizzato da una presenza dello Stato in economia. Un modello che lui identifica o avvicina alle cose che vengono proposte dal presidente Obama, e quindi ha bisogno di mettere in una prospettiva negativa il modello europeo, appunto per valorizzare la sua proposta liberista di un capitalismo che non preveda e che non contempli un intervento dello Stato in economia. Paolo, comincio da te. South Carolina, il voto sarà sabato 21, un pronostico? Il pronostico è Romney, con un'eventuale sorpresa di un candidato della destra che potrebbe, che dovrà fare un passo da gigante per arrivare, per avvicinarsi, ma cosa che è improbabile, ma insomma potremmo assistere a un recupero di Santorum, per esempio. Massimo, tu pensi che qualcun altro possa entrare in campo? Beh, noi sappiamo che è possibile che una vittoria di Romney, che prevale sugli altri contendenti attuali, ma che non convince fino in fondo l'elettorato e lo porta alla convention ad avere un vantaggio non decisivo, può portare o la convention a esprimersi per qualche altro candidato, o il vero spettro probabilmente è quello del terzo candidato presidenziale, l'emergere di un candidato indipendente che potrebbe essere tra l'altro lo stesso Ron Paul. No, io volevo solo aggiungere che sarà interessante osservare cosa succederà in Texas nel fine settimana, dove i leader della destra cristiana si riuniranno per tentare di trovare di unificarsi dietro a un candidato, e potremmo anche assistere a una sorpresa, nel senso che se non trovano un candidato potremmo anche o vederli uscire ancora divisi, o magari prendere atto della situazione e gettare il loro peso dietro Romney. Insomma, sarà un passaggio importante per capire come si svilupperà il processo della nomination repubblicana. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive i tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. A 14 anni dal loro ultimo album, i Van Halen tornano sulla scena con un nuovo single, titolo Tattoo, un'anticipazione del nuovo disco della band, dei Van Halen, Tattoo. On my shoulder is the number of the chapter he was in. That number is forever, like the struggle here to win. Everybody, Swamp Beat Sally, Tramp Step Jack, Housewife to Mom Show, in the time it takes to get that new tattoo. Da Manchester è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.